Parlare con te di questi tempi e di dove andiamo. Metto giù e continuo a parlare di noi, di chi eravamo e dove siamo. Resto su fino a tardi a parlare con te e non ti stanchi mai di ascoltare. Sento giù, non so neanche bene il perché, ma solo a te lo potrei dire. Ci sono cose che ancora non ti ho detto sulla stima e sul rispetto. E un'altra cosa che da te ancora aspetto, te lo chiedo qui, è scritto in questo testo. Non so più se continui a parlare con me, mi sento solo in questi giorni. Ma perché hai smesso di parlare con me? Intanto aspetto che ritorni. Cerco in me, adesso che tu non ci sei, la coerenza dei tuoi pensieri. E ho di più la voglia di sentire da te le ingiustizie che denunciavi. Ci sono cose che ancora non ti ho detto sui ricordi e sull'affetto. Potevo essere più forte, sì, lo ammetto, e lo so, ci penso ancora adesso, ci penso ancora adesso. Resto su fino a tardi a parlare con te, che non ti stanchi più di ascoltare. Mi sento giù e forse ho capito perché, perché solo a te lo potevo dire.